Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, superati 15.000 morti al mondo, sale il contagio in Spagna con oltre 30.000 casi. In Italia allarme medici, sono il 9% dei positivi, più del doppio che in Cina. Morto il direttore di una casa di cura di Cremona e un medico in pensione a Parma, anche lui lavorava in una residenza assistita. Al via il nuovo DPCM con l'elenco delle industrie che si devono fermare, troppo poco per i sindacati. I metalmeccanici lombardi annunciano uno sciopero per mercoledì. Confindustria dice perderemo 100 miliardi al mese. Olimpiadi di Tokyo 2020, decisione solo tra un mese, ma lo slittamento appare sempre più probabile. Il Canada dice non manderemo i nostri atleti. E buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata su Radio 24, notizie sul coronavirus. Come avete sentito dai titoli, oltre 15.000 le vittime al mondo, il contagio che sta salendo molto rapidamente in Europa, in Spagna con oltre 30.000 casi. In Italia c'è una questione medici, l'Istituto Superiore di Sanità ha contato che quasi il 10% dei casi positivi sono ormai membri del personale sanitario. Intanto, mentre si allunga l'elenco delle attività economiche che si fermano questa settimana, i sindacati lombardi annunciano uno sciopero. Ma iniziamo dalla cronaca, dicevamo medici molto colpiti, ancora due di loro vittime, entrambi lavoravano in una casa di cura a Cremona e a Parma. Si salvi chi può non è la soluzione, più che licenziare bisogna accogliere e far sentire che la società è solidale. È il messaggio di Papa Francesco alle imprese, lanciato nel corso di un programma spagnolo sulla Sexta. E dopo l'emergenza Bergamo va in tilt anche il forno crematorio del cimitero di Piacenza, dove sono bloccate un centinaio di bare. Altri due medici deceduti per coronavirus, Leonardo Marchi, medico infettivologo a Cremona, e Manfredo Squeri, medico di Parma. Salgono così a 19 i camici bianchi scomparsi a causa del contagio. In Italia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 4.824 i professionisti sanitari contagiati, pari al 9% del totale, una percentuale più che doppia rispetto a quella registrata in Cina, complice la mancanza di adeguati strumenti di protezione. Primi segnali di rallentamento dell'epidemia in Italia, dove sono oltre 46.600 i positivi, frenano anche i nuovi contagi rilevati, in forte calo anche a Bergamo, Brescia e Milano. Intanto Fiat Chrysler annuncia che riconvertirà uno stabilimento del gruppo per produrre 1 milione di mascherine facciali al mese. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora allarghiamo lo sguardo al mondo e in particolare all'Europa, alla vicina Spagna, dove i casi stanno salendo molto molto rapidamente. Sentiamo. Sono oltre 15.000, fa sapere l'agenzia France Presse, le persone morte di coronavirus nel mondo, dove i contagi, calcola l'americana Johns Hopkins University, si avvicinano ormai a quota 340.000, tanti anche i guariti, quasi 99.000. In Europa preoccupa l'estendersi dei casi in Spagna, dove solo nelle ultime 24 ore ci sono state 462 vittime. Oltre 33.000 contagi, riferisce il paese, sono più di 2.300 ricoverati nei reparti di terapia intensiva già allo stremo. E mentre sale la curva di crescita dei decessi in Gran Bretagna più rapidamente di quella italiana, Londra registra un tasso di aumento di contagi superiore a quello di Milano di Bergamo. In tutto il paese le persone infettate sono oltre 5.000, quasi 300 le vittime. Dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, i casi di coronavirus hanno superato quota 32.000 con almeno 400 morti. 8 gli stati che hanno ordinato lo stay home per un totale di 100 milioni di abitanti, quasi un americano su 3. Sono un po' arrabbiato con la Cina, le parole di Donald Trump, che ha riferito in conferenza stampa di avere comunque parlato col presidente cinese Xi Jinping, per il quale nutro rispetto, ha detto il presidente americano. Le buone notizie arrivano dall'Oriente, con la Corea del Sud che domenica ha registrato solo 64 nuovi casi, portando il totale a 8.961, il dato più basso nel paese da metà febbraio. Ancor meglio fa la Cina, che parla di 0 nuovi casi interni. I contagi registrati, 39, fa sapere Pechino, sono stati tutti importati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alle ultime decisioni del governo con il DPCM del Presidente del Consiglio Conte, firmato ieri sera dopo l'annuncio arrivato ben 24 ore prima. Dunque, cosa rimane aperto, che cosa chiude? Sentiamo, intanto ricordiamo anche che ci sono ancora 3 giorni per l'entrata in vigore, dunque per smaltire le scorte. Più stringenti ancora, tra l'altro, sono invece le previsioni della Lombardia. Sono ancora molti i dubbi tra le imprese e le categorie sulla lista di 80 attività che possono rimanere aperte allegata al decreto Conte di ieri sera. Le chiusure dovranno avvenire entro mercoledì. In giornata sono attese le FAQ sul sito del governo e l'elenco potrà essere modificato dal Ministro dello Sviluppo. Resta attiva tutta la filiera agroalimentare, i settori sanitario e farmaceutico, i servizi essenziali e l'energia, gli impianti a ciclo continuo, aerospazio e difesa, i cantieri essenziali, l'informazione. Attivi anche trasporti e corrieri, gli alberghi chiusi invece in Lombardia, attività finanziarie e assicurative, la produzione di carta e plastica. Possono lavorare anche colf e badanti, i call center e anche gli studi professionali chiusi invece in Lombardia. Aperte anche le imprese che producono componenti per le filiere essenziali. Va chiarito, spiegano fonti di Confindustria, che tutto deve chiudere salvo limitate eccezioni. Dubbi tra gli altri sui cantieri edili e sul commercio online. Da ieri sera fino al 3 aprile è inoltre vietato alle persone spostarsi da un comune all'altro e anche rientrare a casa se non per motivi di lavoro, assoluta urgenza o salute. Restano aperti come prima solo supermercati e negozi di prima necessità, banche, poste, farmacie, edicole e tabaccai. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alle reazioni delle parti sociali, aziende e sindacati a questa nuova misura. Sono reazioni di segno opposto. I sindacati minacciano uno sciopero perché dicono che ci sono ancora troppe attività aperte, uno sciopero ventilato dai metalmeccanici della Lombardia, mentre Confindustria invita alla cautela e prevede la chiusura del 70% del tessuto produttivo italiano. Il decreto sulla chiusura delle fabbriche divide il mondo del lavoro per i sindacati. Le aziende non essenziali rimaste aperte sono ancora troppe, mettendo così a rischio la salute dei lavoratori. Mercoledì in Lombardia i lavoratori delle aziende metalmeccaniche sciopereranno per 8 ore perché, dice il segretario FIM Marco Bentivogli, nella regione sono necessarie misure più restrittive sulle aperture. I lavoratori del settore aerospazio, rende noto la FIOM, sono in sciopero da questa mattina in aziende come Leonardo, Geavio, Fata Logistics System, LGS e Vitro CISET. CGL, CISL e Will minacciano uno sciopero generale se non si sospendono le attività non essenziali. L'elenco dei settori aperti stilato dal governo, dicono i sindacati, non rispetta quanto concordato durante il fine settimana e serve quindi un incontro urgente per modificare il decreto. Non capisco lo sciopero, dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Con questo decreto siamo entrati in un'economia di guerra. Il 70% del tessuto produttivo chiuderà. Se il PIL è di 1.800 miliardi all'anno, spiega Boccia, vuol dire che produciamo 150 miliardi al mese. Se chiudiamo il 70% delle attività vuol dire che perdiamo 100 miliardi al mese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso facciamo il punto anche sulla ricerca per quanto riguarda i farmaci e i vaccini. L'Agenzia Europea per i Medicinali annuncia di aver ricevuto proposte per 20 farmaci e 35 vaccini che adesso sono all'esame. Sentiamo. 20 nuovi farmaci e 35 vaccini contro il coronavirus sono stati proposti alla valutazione dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali. Se si corre, si potrà avere il vaccino entro un anno. A dirlo è il direttore esecutivo dell'EMA, Guido Rasi, che ha parlato di un vaccino difficile che ha bisogno di dati molto rassicuranti. Sul fronte delle cure, Guido Rasi ha fatto l'esempio italiano citando l'utilizzo del farmaco contro l'artrite reumatoide della Roche, che dopo studi su vasti numeri darà esiti credibili entro un mese. Incoraggianti anche i dati dell'ospedale universitario di Marsiglia sull'efficacia del mix tra un farmaco antimalarico, l'idroclorochina, e un antibiotico, l'azitromicina. E mentre parte la raccolta fondi per finanziare lo sviluppo di un vaccino tutto italiano, al Policlinico San Matteo di Pavia si attende il via libera per sperimentare la terapia a base di plasma dei pazienti guariti da Covid-19. Contrariamente a quanto affermato sul web in questi giorni, non ci sono invece prove di efficacia sul favipiravir, noto col nome commerciale di Avigan, un farmaco antinfluenzale approvato per l'uso clinico in Giappone nel 2014. Nonostante questo, la Regione Veneto lo vuole e il governatore Luca Zaia ha annunciato che verrà sperimentato anche nella sua regione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo dovremo parlare nella seconda parte di Effetto Giorno, proprio con il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha detto vuole impiegare il prima possibile nella sua regione questo farmaco Avigan, su cui appunto l'AIFA ha detto di avere avviato verifiche proprio in queste ore. Ancora riapriamo però una pagina politica, perché l'opposizione ha criticato le modalità con cui il presidente del Consiglio Conte ha comunicato dopo molta attesa di nuovo nel pomeriggio e poi la diretta su Facebook, quindi una modalità fuori dai canoni ordinari della politica per comunicare agli italiani l'ultimo DPCM, e l'opposizione che torna a chiedere invece la convocazione del Parlamento. Matteo Salvini insiste, il Parlamento apra. Chiedo di andare ad ascoltare, modificare, suggerire, emendare, collaborare, dice il leader della Lega. La storia insegna, in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale il virus si chiamava nazismo, si istituì un gabinetto di guerra dove tutti furono coinvolti e fecero la loro parte. Conto di avere una risposta dal Quirinale. Ma al leader della Lega risponde invece il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi. A collaborare Salvini non ce la fa proprio, potrebbe però evitare di dire bugie in TV. Le istituzioni sono operative, chi vuole lavorare ha lavoro. Da martedì Camera e Senato saranno riuniti, spiega poi Andrea Marcucci del PD. Comincia l'iter del decreto Cura Italia in Commissione Bilancio e a Palazzo Madama. Salvini e Meloni dedichino il loro tempo a migliorare i provvedimenti per gli italiani invece di raccontare fake news. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora allarghiamo il discorso alla cornice europea dal punto di vista delle politiche economiche che sono concesse. Riunione dell'Eurogruppo oggi a Bruxelles, dove dovrebbe essere formalizzata l'importante decisione, cioè la sospensione del patto di stabilità, e c'è attesa anche per una decisione, questa però non sembra imminente, sui cosiddetti eurobond. Le mosse comuni europee diventano sempre più cruciali in un'Italia che ferma le attività produttive non strategiche e in vista delle previsioni sulla crisi economica europea. Per questo sale l'attesa per l'Eurogruppo, che stabilirà gli strumenti che l'Europa intende usare per sostenere l'economia colpita dagli effetti del coronavirus, dai coronabond al fondo salva stati. La componente tedesca del board della BCE, Isabel Schnabel, apre agli eurobond. Alla crisi non si può far fronte con strumenti usati in passato, dice il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni. Con il MES, dice, si potrebbe anche creare un fondo straordinario per programmi legati al contrasto al coronavirus, che coinvolgerebbe tutti i paesi. Ci sono poi i fondi strutturali non spesi, un'opzione che per l'Italia vale svariati miliardi, afferma ancora Gentiloni. Saranno i ministri dell'economia e delle finanze dei 27 paesi europei ad aprire la nuova settimana di emergenza sanitaria, economica e sociale. La loro videoconferenza del pomeriggio è principalmente dedicata all'approvazione della clausola che sospende il patto di stabilità proposta dalla Commissione venerdì. L'Ecofin inizierà la discussione, l'Eurogruppo la proseguirà. Seguirà martedì e giovedì un nuovo vertice dei capi di Stato e di Governo, tirerà le conclusioni. E questo conferma ancora una volta che i fondi europei sono quasi l'unica risorsa vera su cui si può contare per le misure di sostegno pubbliche in Italia e in Europa. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. È morto Alberto Arbasino, aveva compiuto 90 anni lo scorso gennaio, era considerato uno dei grandi vecchi della cultura italiana, scrittore assai prolifico, ha raccontato l'Italia e gli italiani con una prospettiva e una visuale definita anticonformista. Storico collaboratore dell'Espresso e di Repubblica, Arbasino fu tra i protagonisti del gruppo 63. Alle 13:13 minuti la pagina dedicata allo sport. Si deciderà il 15 aprile, non prima, il destino delle Olimpiadi di Tokyo 2020, destino che però appare sempre più vicino a un possibile slittamento. Carlo Genta. Ciao Alessio, ciao a tutti. Beh sì, slittamento che potrebbe essere nel 2020, ma spostato verso l'inverno, come abbiamo sentito. Abbiamo anche sentito che il Canada ha deciso che comunque non manderà i suoi atleti a Tokyo nel caso in cui le Olimpiadi dovessero essere confermate. Una decisione che ricorda i boicottaggi di un'altra degli epoca. Anni del 1980. Erano altre questioni. Altre questioni e altri motivi, ovviamente. Beh, questo è un tema di discussione che affronteremo, anzi proveremo ad affrontarlo lungo tutta la settimana, sentendo un po' di atleti olimpici. Qual è la loro posizione individuale? Poi c'è anche quell'altro tema relativo al calcio, perché a questo punto si dice: ma davvero riusciamo a cominciare? Già Cellino, presidente del Brescia, ha detto: scordatevelo che si possa ricominciare, domani c'è un'assemblea di Lega. Poi c'è da decidere sulla questione economica, cioè come verrà gestito il danno, gli stipendi verranno pagati, se sì quanto, dove, come, insomma. Cioè a scuola questo succede coi bambini che ti dicono che ti rimborsano la quota mensa di cui non hai usufruito. Nella Serie A che succederà? Cosa rimborseranno a chi? La quota mensa è un pelo più elevata Caso del ticket dei bambini, E insomma, anche questo è un argomento che molto caldo, che riguarda da vicino i presidenti club italiani, anche perché non tutti sono la Juventus, l'Inter o il Milan o il Napoli. Ci sono club che, insomma, come le aziende di piccole e medie dimensioni, rischiano molto di più. In crisi momento di liquidità anche per loro. Sentiremo la presidentessa dell'Udinese, Magda Pozzo. Bene. Ricordo io il numero 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, per intervenire anche nel programma sportivo, così per allietarci, provarci almeno il pomeriggio in compagnia delle notizie sportive con tutti i convocati. 13:15 minuti, noi di Effetto Giorno invece facciamo un piccolo break, torniamo tra poco e dovremo essere con il presidente del Veneto Luca Zaia, anche se al momento risulta irraggiungibile, con lui per parlare della questione tamponi, perché il Veneto fa più tamponi, è una decisione che in qualche modo raccomanda anche l'OMS, cerchiamo di avere un punto di vista anche un po' disallineato, anche un po' da stimolo, che sia da stimolo alle decisioni appena prese dal governo, perché comunque nonostante il segnale positivo sul numero di contagi di ieri, la situazione è ancora molto grave, il numero di decessi è ancora molto alto. Avete sentito la cronaca di oggi di Piacenza, una città nella quale non si riesce a far posto alle salme, ai feretri. E poi perché il Veneto vuole sperimentare assolutamente la medicinale Avigan, che è stato usato con successo in Giappone. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: coronavirus, superati 15.000 morti al mondo, sale il contagio in Spagna con oltre 30.000 casi. In Italia allarme medici, sono il 9% dei contagiati, più del doppio che in Cina. Morto il direttore di una casa di cura di Cremona e un medico in pensione a Parma, anche lui lavorava in una residenza. Al via il nuovo DPCM con l'elenco delle industrie che si devono fermare, troppo poco per i sindacati. I metalmeccanici lombardi annunciano uno sciopero per mercoledì. Confindustria, perderemo 100 miliardi al mese. Olimpiadi di Tokyo 2020, decisione soltanto tra un mese, ma lo slittamento appare sempre più probabile. Il Canada intanto annuncia: non manderemo i nostri atleti. Minuti di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, avete appena sentito i titoli principali delle notizie di oggi. Tra questi, anche se non abbiamo inserito nei titoli, c'è la fortunata l'elevata adesione, quindi una notizia positiva, dei giovani medici italiani al bando, all'appello per una task force fatta dal governo per creare un supporto agli ospedali in affanno per l'emergenza coronavirus. 7.220 sono le persone, i medici, che hanno già risposto. Ne parliamo con un giovane medico, un neolaureato che abbiamo incontrato qualche giorno fa, Federico Lavagno. Ciao Federico. Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Federico Lavagno è coordinatore nazionale del Dipartimento Post Laurea del Segretariato Italiano Giovani Medici, in pratica l'associazione che raggruppa i neolaureati in medicina, giusto? Sì, il Dipartimento appunto sì, segue tutti i ragazzi e ragazze che sono appena laureati e che adesso hanno ottenuto anche l'abilitazione con l'ultimo decreto. Esatto, il Cura Italia, ricordiamolo, che come dire, ha fatto bypassare la necessità dell'esame per avere l'abilitazione, giusto? Sì, una delle due parti, diciamo, sì. È abolito il test, mentre rimangono validi i tirocini, il superamento dei quali appunto permette di ottenere l'esame di Stato e l'abilitazione. Ecco, questo è un punto importante da chiarire, il tirocinio rimane necessario, quello che è stato eliminato è stato il test, che in questa fase si è ritenuto, diciamo, che fosse un intralcio non necessario, anzi un impedimento affinché 5.000 neomedici potessero entrare subito in servizio a dare una mano, non necessariamente in prima linea, ma anche magari a fare sostituzioni di medici di base, guardie mediche e quant'altro. Cosa manca ancora nel tuo caso, per esempio Federico, perché ognuno di voi poi comunque sta seguendo un suo iter, per poter essere effettivo, cosa manca ancora? Allora, innanzitutto io sono uno dei 5.700 medici all'incirca che si è appena abilitato, quindi sono diciamo un esempio di questi ragazzi. Noi neoabilitati, come i nostri colleghi che si sono abilitati a luglio, perché la scorsa sessione era appunto luglio, diciamo siamo dei giovani medici che hanno superato 6 anni di università, ma che necessitano ancora di formazione. Quindi la nostra preoccupazione in questi periodi è che ci sono molte proposte da parte delle regioni, ci sono molti bandi a cui possiamo partecipare, ma la nostra preoccupazione è il non essere formati abbastanza per questa emergenza. Cioè di essere mandati così un po', diciamo, allo sbaraglio, la semplifico in maniera un po' brutale, ma insomma è una preoccupazione che c'è tra di voi. Esatto, sì, perché noi siamo giovani medici, ma ricordiamo che in Italia la carenza non è quella di medici, di giovani medici, perché ce ne sono molti. Il grosso problema sono i giovani medici che non riescono a entrare nella formazione specialistica e quindi poi diventare specialisti in seguito agli ulteriori 4 o 5 anni di studio lavoro, e quindi diciamo che la carenza che si sta verificando in questi giorni è quella di specialisti, e cui noi poi come giovani medici verremmo chiamati a sopperire, essendoci carenza di specialisti. Certo, allora però ti faccio questa domanda, Federico Lavagno, posto che abbiamo visto delle immagini, pur non essendo entrato io personalmente direttamente in nessun ospedale in questi giorni, di medici che spostavano scrivanie mobili per creare spazio per sale di terapia intensiva, quindi anche tutta una parte logistica, c'è tutto un discorso di accompagnamento delle persone, di trasporto da casa all'ospedale, quindi tutta una parte di sostegno alla prima linea che forse può essere fatto anche da chi specializzato non è, naturalmente. Però nel tuo caso ti chiedo, tu dove immagini di poter essere utile, cioè dove vorresti essere assegnato, dove pensi che potresti essere utile in un eventuale assegnamento, non dicevi sicuramente in un reparto in prima linea? Noi potremmo essere utili in molte condizioni, per esempio in questi giorni i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, sono messi a dura prova da pacienti che per esempio si vengono in studio, vengono in ambulatorio magari con la febbre, oppure moltissimi chiamano, diciamo, i medici di medicina generale, quindi diciamo i centralini sono intasati, quindi il nostro potrebbe essere un supporto appunto a questa categoria di medici. Sicuramente una mano fondamentale che noi possiamo dare è questa, come per esempio il nostro apporto nelle guardie mediche, la continuità assistenziale, quindi durante i weekend specialmente quando i medici di medicina generale non sono cose a sottovalutare. Federico Lavagno, io ti ringrazio, perché tra poco avremo con noi il governatore del Veneto, il presidente del Veneto Zaia, con cui parlare di cose altrettanto importanti. È da non sottovalutare la possibilità che questi giovani medici comunque possano essere inseriti come sostituti dei medici di base, come guardie mediche, se non direttamente in prima linea, però naturalmente dopo una debita formazione. Grazie, staremo a vedere anche la sorte di questa task force. E allora possiamo annunciarlo, Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, grazie per essere con noi e il tempo che ci dedica, perché immagino che siano tutte giornate sempre molto concitate. Zaia, non vogliamo fare polemiche, aprire fronti dissonanti, però credo che, lo dico agli ascoltatori velocissimamente come piccola premessa, che anche non spegnere le voci, diciamo, dissenzienti, chi in qualche modo propone un punto di vista diverso, delle pratiche diverse, non vuol dire far mancare il nostro sostegno a chi è in prima linea, gli ospedali della Lombardia, il Ministro della Salute, la Protezione Civile, il Governo e chi sta lavorando, compreso lo stesso Zaia che sta, diciamo, amministra la sua regione. Però lei, Zaia, più volte ha avuto le posizioni un po' più critiche rispetto alle decisioni del Governo, ma anche posizioni diverse da come è stata gestita la questione in Lombardia, per esempio sui tamponi. Voi avete scelto di farne molti di più che non in Lombardia. Le voglio chiedere intanto, allargando il quadro se possibile, avendo mente fredda se possibile, cosa c'è che ancora non va secondo lei nel modo in cui ci stiamo muovendo in queste ore, perché i decessi sono ancora tantissimi, abbiamo Piacenza che esplode, Bergamo che esplode, i primi dati di ieri sono leggermente positivi sui nuovi contagi, però la situazione è ancora ampiamente grave. Lei cosa vede di sbagliato in tutto ciò? Guardi, io non faccio nessuna considerazione, anche perché non sono nelle condizioni di fare considerazioni. So che il collega Fontana ci sta mettendo anima e corpo in questa partita assieme a tutta la sua squadra. ogni sanità è una storia a sé e non posso neanche accettare che si facciano confronti tra le sanità, nel senso che poi voglio anche ricordare prudentemente che questa non è una partita chiusa neanche per il Veneto, per l'Emilia Romagna, per nessun altro in giro per l'Italia e per il mondo, per cui troverei assolutamente stucchevole fare considerazioni e peggio ancora far bilanci in un momento nel quale per i miei algoritmi, quelli veneti, non siamo neanche arrivati all'apice dell'emergenza, perché secondo gli algoritmi veneti dovremmo arrivarci verso metà. Però lei, consultando il suo comitato tecnico, consultando anche le linee guida dell'OMS, perché su una questione, per esempio, quella dei tamponi, io ancora ho sentito il capo della protezione civile Borrelli dire seguiamo la linea dell'OMS, però a me sembra che l'OMS abbia consigliato di fare più tamponi all'Italia, lo ha detto chiaramente anche Ricciardi, e soprattutto di farlo per esempio agli operatori sanitari, che è quello che in qualche modo avete deciso di fare voi. È questo un punto che lei rivendica come un punto importante? Ma guardi, nel ranking mondiale c'è prima il Veneto, poi la Corea, poi la Lombardia e poi altri, per cui questa è la dimostrazione che anche la Lombardia ha fatto i tamponi. E il vero tema è che la comunità scientifica spesso litiga al suo interno, e lo abbiamo visto in molti casi. Se venisse qualcuno da lei fra qualche mese a chiederle un giudizio, ora una raccomandazione, un suggerimento su come affrontare un'emergenza da coronavirus, lei sicuramente direbbe fate tamponi, comprate mascherine, comprate respiratori. Sono esattamente tre cose che non ci hanno mai detto. A proposito delle mascherine, no, per esempio, anche questa, è possibile che per esempio il decreto Cura Italia prevede incentivi alle aziende che producono volontariamente mascherine, ma è sufficiente che ci sia, come dire, una incentivazione e non ci sia, io chiudo gli occhi, immagino magari in un altro paese, non l'Italia, l'esercito che prende possesso di alcune aree magari dismesse o aree all'interno dello spazio e produce 1 milione di mascherine al giorno, 2 milioni di mascherine al giorno con i macchinari che ci sono a disposizione, che non sono costosissimi, non sono particolarmente complessi, perché altrimenti non è una produzione che è stato detto che non è così complessa dal punto di vista tecnologico. È sufficiente quello che stiamo facendo? Ma guardi, io come Veneto abbiamo avuto un approvvigionamento tra parte consegnata e parte in arrivo, e prego Dio che arrivino dei 13 milioni e mezzo di mascherine. Però la verità è un'altra, che questa crisi ci insegna e ci fa capire anche che noi non siamo più, diciamo, autosufficienti su molti fronti. Una volta, quando eravamo bimbi, ci insegnavano a scuola, si leggeva che l'industria bellica è la misura della forza di un paese. Oggi dei carri armati non se ne fa niente a nessuno, perché le vere guerre sono quelle come questa epidemiologica, sono guerre batteriologiche con i virus, e la vera industria bellica oggi è avere un biomedicale che funzioni e avere industrie strategiche. Mascherina è un prodotto poverissimo, tant'è vero che la macchina costa meno di 200.000 euro e riesce, sì, a sparare milionate di mascherine al giorno. Il prodotto è povero, sappiamo che nessun imprenditore mai farà mascherine in Italia, in Europa, perché comunque costano molto di meno in giro per il mondo. Dobbiamo sostenere queste produzioni. Come lo si fa? Se sono produzioni strategiche, vanno sostenute all'interno di un paese, cioè bisogna pagare il gap, il delta che c'è tra il mercato internazionale e il costo di produzione nazionale. Assolutamente. Senta, un'ultima cosa voglio chiedere, Zaia. Ammettiamo che, insomma, il picco venga raggiunto tra un po', tra qualche giorno, tra una settimana, insomma, che in qualche modo ci siamo vicini. Cosa succederà dopo? Lei ci ha pensato? Cioè, torneremo a che tipo di normalità? Feste, partite di calcetto, bar, ristoranti, scuole? In Cina le scuole sono ancora chiuse, segnalo questo. Guardi, io penso che innanzitutto dovremmo uscirne, e dobbiamo uscirne bene. Bene significa quando si metterà la parola fine, nel senso che ci sarà una coda di questa emergenza che non sarà più così endemica, così problematica per la nostra comunità, ma ci sarà, perché i nostri algoritmi ci parlano anche di gli ultimi pazienti a fine giugno, primi luglio. Saranno pazienti residuali, ma ci saranno. Dopodiché, usciti da questa tragedia, il Veneto, l'Italia non sarà più quella di prima, nel senso che cambieremo sicuramente visione dal punto di vista culturale, di approccio sociale, ma penso anche che potremmo avere davanti, se nel frattempo non si saranno bruciate tutte le imprese, per questo bisogna intervenire sulle imprese, sul tessuto economico, potremmo avere davanti veramente un nuovo rinascimento, perché comunque ci sarà voglia ancora di vivere, di fare, di intraprendere. Però ci sarà molto da fare, questo è ovvio. Sì, ma è fondamentale che dopo una crisi del genere, che vale come la seconda guerra mondiale, ci si renda conto che le nostre imprese devono essere mantenute in vita. Grazie Zaia, grazie. Buona giornata, buon lavoro. Insomma, la domanda sul cosa accadrà dopo, diciamo il sottotesto di questa domanda è: mettiamo che alla fine di questa ondata di contagio, che stiamo comunque riuscendo a gestire anche se con tante perdite di vite umane a livello di sistema sanitario nazionale, mettiamo che vengano contagiati 100-200 mila persone più tutti gli asintomatici, mettiamo che arriviamo a 1 milione, che succede con gli altri 59 milioni di italiani che non hanno fatto l'epidemia, con un virus che è ancora in circolazione, che non aspetta altro di saltare da un corpo all'altro? Questa è una domanda che insomma che sta lì, perché naturalmente, cioè, o qualcuno ci dice che l'epidemia è in grado di estinguersi da sola, allora ha finito il picco, maggio, giugno, luglio, quello che sarà, torneremo a una vita più o meno normale, oppure come invece vengono fatte alcune ipotesi da alcuni ricercatori britannici dell'Imperial College, per esempio, è possibile che si delinei una situazione nella quale torneremo alla normalità per un mese o due, poi ci sarà una nuova ondata che mette a rischio il sistema sanitario, e allora lì, per evitare di andare in tilt con le terapie intensive, torneremo a chiuderci in casa e poi così andare finché non ci sarà un vaccino, che è l'unico modo per risolvere definitivamente questa vicenda. Ipotesi, forse fanta ipotesi, staremo a vedere naturalmente. C'è tempo per lanciare il servizio sugli aiuti internazionali all'Italia? No, non c'è tempo, forse più tardi. Andiamo in break e torniamo tra un attimo. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, superati 15.000 morti al mondo, sale il contagio in Spagna con oltre 30.000 casi. In Italia è allarme medici, sono il 9% dei contagiati, più del doppio che in Cina. Morto il direttore di una casa di cura a Cremona e un medico in pensione di Parma. Bisognerà attendere il 4 aprile prima di riuscire a vedere gli effetti delle misure più restrittive. È la valutazione del fisico Giorgio Parisi, esperto di sistemi complessi all'Università La Sapienza di Roma. Al via il nuovo DPCM con l'elenco delle industrie che si devono fermare. Confindustria dice: perderemo 100 miliardi al mese, ma i metalmeccanici lombardi annunciano uno sciopero per mercoledì. Olimpiadi di Tokyo 2020, la decisione sul farle o non farle arriverà non prima di un mese, ma lo slittamento appare sempre più probabile. Il Canada annuncia: non manderemo i nostri atleti. Il punto di Alberto Orioli. Siamo proprio sicuri che sia la diretta Facebook il modo più corretto per mandare i messaggi solenni al paese? Per Giuseppe Conte è diventato il metodo ormai normale per comunicare via via i provvedimenti della blindatura dell'Italia, con la pessima abitudine, peraltro, delle anticipazioni che disorientano il paese. Questa scelta è un modo per parlare direttamente al popolo, è evidente, ma ciò che più conta è che questa sequenza di messaggi diretti crea una sorta di neoperonismo all'italiana o alla matriciana, perché non passa nemmeno dalla mediazione parlamentare, perché, come è noto, le Camere sono in un inspiegabile blackout. E figurarsi se passa dalla mediazione delle domande dei giornalisti, che altrimenti magari chiederebbero conto di certe formulazioni ambigue o di alcuni andamenti ondivaghi che creano disorientamento. Se a questo aggiungiamo la sequenza giornaliera dei distinguo e delle polemiche dirette tra Stato centrale e regioni, non possiamo non concludere che il virus rischia di infettare anche i normali meccanismi della dialettica istituzionale del nostro paese. L'emergenza sanitaria oscura tutto, è evidente, ma la qualità della nostra democrazia non è argomento minore.